Proxy Bar, Proxy Bar. Proxy Bar, Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Durante una visita dell'ammiraglio Kür, gli allievi del Collegio Navale della Gioventù Italiana del Littorio, magnifica istituzione che prepara dalle nuove generazioni i futuri difensori della patria sul mare, hanno svolto alcuni saggi ginnastici e sportivi ed una brillante manovra sulle imbarcazioni a remi. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, vorrei darvi il benvenuto a Proxy Bar, una rubrica che debutta oggi per la prima volta e che andrà in onda tutti i giovedì dalle 19 alle 19.45 e che condurrò insieme a Daniela Apollonio. Buonasera Daniela. Buonasera Antonio, fa veramente strano parlare su queste note che ci riportano indietro nel tempo. Sì, ma non dovevamo fare una trasmissione sull'innovazione? Abbiamo sentito. Sì, che cosa c'entra tutto questo? Vabbè, lo vedremo più tardi. È stato un po' un teaser, ma piuttosto tu Daniela hai un'idea chiara di che cosa dobbiamo affrontare? Non scambiamoci ruoli, sono io che ti faccio le domande e tu mi dai le risposte, perché vabbè. Non posso. Abbiamo parlato per settimane di questo programma, abbiamo deciso di cosa non dire e cosa non fare, ma ti prego, lasciate il compito di raccontarlo. Ok, diciamo che abbiamo fatto i grandi professionisti, i grandi brainstorming, abbiamo studiato il format in tutti i modi, poi alla fine siamo giunti alla conclusione che Radio Mago non ha bisogno di una trasmissione sulla tecnologia. Noi non faremo una trasmissione sulla tecnologia. No, anche perché noi siamo tecnologia. Ecco. No, il punto è che abbiamo stabilito che esiste una massa critica di persone che ormai sanno benissimo usare gli strumenti informatici, che sono poi gli ascoltatori di Radio Mago, che sanno usare, che so, le applicazioni di Office, sanno usare il computer, sanno collegarsi a internet, sanno trovare le cose e non hanno bisogno di sapere gli strumenti, come funzionano, hanno bisogno magari di sapere che cosa c'è di nuovo su internet, sia in materia di contenuti da scaricare, come alternativa ai contenuti che insomma arrivano per esempio dalla radio, dalla televisione, e poi le grandi nuove applicazioni che migliorano la qualità della vita, come dice il nostro jingle. Ed è di questo che parleremo. Sì, ma mi racconti quelle note musicali sulle quali abbiamo iniziato la nostra trasmissione, cos'erano? No, adesso questa sorpresa ce la svegli. Vabbè, intanto era un file audio, e questo sì, già è un buon indizio. Era un file audio tratto dal sito dell'Istituto Luce, che è stato completamente rinnovato e adesso comprende un archivio digitalizzato, liberamente accessibile, gratuitamente accessibile a tutti, di tutta la produzione audiovisiva dell'Istituto Luce dagli anni, credo, 20 fino, vabbè, adesso poi ce lo spiegheranno, però insomma praticamente c'è tutto, una mole impressionante di ricordi. E questa è una delle cose di cui vorremmo parlare oggi. Perfetto. E quindi, che dire, possiamo anche partire a questo punto, magari sentendo i grandi responsabili di questo piccolo miracolo. Sì, la nostra abbiamo messo sotto la nostra redazione, che si è dato un grande fare per trovare i responsabili di questa meraviglia, così magari ci spiegano. Magari però mentre in questo momento provano a contattarli per metterci in contatto con loro, diciamo anche, sì, magari mandiamo un brano musicale e poi cercheremo di parlare direttamente con loro. We'll be right back. Radio Imago. L'Università di Roma è divenuta la sede ormai classica dei congressi di partito. Questo è il secondo dell'uomo qualunque e Giannini sale a inaugurarlo la Scalea degli Studi. Il generale Bencivenga presiederà il congresso. L'onorevole Selvaggi e l'onorevole Thieri. Sullo sfondo dell'Italia raffigurata nei suoi naturali confini campeggia la sigla del partito. Selvaggi parla dei laboriosi emendamenti allo statuto. Il pubblico ascolta il discorso di Mastroianni sullo stato amministrativo. Giannini, che già aveva aperto il congresso con una sua critica alla Democrazia Cristiana e alle destre, ora lo conclude. La figlia Gloria contrappunta di un sorriso familiare l'attenzione dei congressisti e gli applausi finali. Per parlare nell'Aula Magna, Giannini ha dovuto pagare una specie di matricola, conclusasi con il simbolico inverrettamento. Cambiato il contesto politico, però insomma l'Istituto Luce, i cinegiornali facevano sempre il loro lavoro in qualche misura. Sì, decisamente sì, fa un certo effetto ascoltare queste voci, questi contributi così rovinati, ti danno proprio la sensazione del tempo passato. Beh, considera che tutti questi materiali sarebbero stati soggetti a decadimento e che anzi sono stati salvati attraverso la digitalizzazione, però non è di questo che possiamo parlare ancora, perché le persone con cui volevamo parlare in questo momento non riusciamo a contattarle, quindi passiamo a quella che poteva essere la seconda parte di Proxy Bar. Sì, perché noi nella fretta non abbiamo raccontato come vogliamo strutturare questa rubrica. Abbiamo 45 minuti di tempo. Come la vogliamo strutturare? No, raccontiamo, questa è la puntata 1, okay. Anzi la puntata 0, chiamiamo la puntata 0. Vabbè. Ok? E quindi abbiamo deciso di strutturare la rubrica con dei blocchetti. Per avere delle certezze. Esatto. Vabbè, dai. La prima parte doveva riguardare un approfondimento. Sì. Che quest'oggi doveva essere inerente l'Istituto Luce, il gran lavoro che hanno fatto. Dopodiché? E dopodiché magari avremmo potuto parlare di alcune chicche che si trovano su internet, sia in termini di contenuti scaricabili, sia in termini di applicazioni che cambiano la nostra vita concreta. Non parliamo degli strumenti, non parliamo delle tecnologie. Per poi alla fine... Dimmi perché Guru Meditation. Alla fine sì, c'è questa rubrica che si chiama Guru Meditation e c'è un motivo. Vabbè, i possessori di Amiga negli anni 90 sanno benissimo di cosa sto parlando. L'Amiga, a differenza dei computer PC compatibili, come si chiamavano allora, quando si bloccava... IBM compatibili, ok. Quando si bloccava un'Amiga, lui non tentava di spiegarti perché, non c'era, che so, errore generale, irreversibile nel modulo XZ, no, diceva semplicemente, guarda, non funziona, sto meditando, questa è la meditazione del guru, appariva un banner rosso con scritto Guru Meditation e noi proprietari di Amiga ci siamo quasi affezionati a questa ammissione di fallacità dello strumento informatico e poi quando siamo entrati nel mondo... del mondo degli IBM compatibili, il fatto che qualcuno provasse a spiegarci con un linguaggio molto tecnico perché le cose non funzionavano, in realtà non era di grandissimo aiuto. E... meglio la bomba di Apple? Meglio la bomba di Apple, ecco, viene fuori la tua anima Apple. E quindi senti, visto che dobbiamo parlare di queste chicche, io in questa prima settimana, ci perdonerete, ancora un po' disarticolata, ho cercato di vedere che cosa c'è di veramente nuovo. E tutto quello che è nuovo qui sono applicazioni 2.0. Ma tu sai esattamente che cosa sono le applicazioni 2.0? Ma dobbiamo spiegarlo tecnicamente? No, o spiegarlo? Non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente. No, diciamo che vabbè, la vera grande differenza che ho sentito anche in queste strane riunioni che si chiamano Barcamp rispetto al web 1.0, che queste applicazioni, diciamo che invece che fornire direttamente informazioni che vengono scaricate dalla plebe, in realtà queste applicazioni forniscono delle funzionalità ed è la plebe a fornire i contenuti. Certo, chiamali stupidi. Esatto, il famoso fenomeno dello user generated content è il fenomeno, diciamo, più famoso, quello di Flickr, poi c'è YouTube, insomma i video caricati dagli utenti, le foto caricate dagli utenti. Però oltre a questo, adesso io ho scoperto che ci sono dei siti, per esempio come questo Blish.com, vabbè, tutti i link di questa trasmissione li troverete sul nostro blog, sul sito di Radio Mago, radiomago.net. E quindi non sto a fare lo spelling di come si dice Blish, però insomma Blish è carino come servizio 2.0, perché se tu hai realizzato qualcosa di tuo che è liberamente scaricabile da internet, Ossia non a pagamento. Non a pagamento, okay. Diciamo che parte come una cosa non a pagamento. Puoi in realtà venderlo. Il negozio online dove queste cose si possono scaricare, come se fosse iTunes, te lo mette a disposizione Blish, che si limita a prendersi naturalmente una piccola percentuale sul ricavato di queste vendite. Ma che tipo di contributi sono? Audio, video? Tutto quello che può essere scaricabile. Per esempio anche, che so, dei template di PowerPoint. Tu sei uno che ha fatto una presentazione, ha perso mezza giornata a studiare un template, poi dici: ma diamo un senso a questo lavoro che ho fatto, mettiamolo su Blish, vendiamolo, poi magari nessuno se lo fila, poi magari dopo un mese qualcuno comincia a comprarlo, $1 per volta, $2 per volta, e diventi ricco. No, non credo che succederà che uno diventi ricco in questo modo, però insomma è interessante, perché oltre ai template qui si possono per esempio mettere dei racconti, delle lezioni universitarie, dei suoni royalty free, no? Sono questi suoni che usano le radio, come per esempio la nostra, no? per fare degli effetti sonori, dei template web, e qui si entra nel mondo dei tecnici che magari cominceranno a leccarsi i baffi sentendo questa cosa, dei template per dei biglietti da visita. Mm-hmm. Addirittura qua, beh, qui forse esagerano nella directory, perché c'è anche, che so, i corsi di computer, i corsi di training, i videogame, insomma tutte quelle cose che effettivamente dal mondo di internet vengono prodotte continuamente. C'è tutto sto discorso sulle licenze, Creative Commons, eccetera. Ci sono però adesso gli iTunes per gli utenti, cioè gli utenti vendono le cose. Una cosa è il negozio che so che uno può farsi su Amazon, no? Dove vendi o su eBay, esatto. Mm-hmm. Scusami, che dove uno sì, vende anche le ciabatte usate, perché magari ritiene che qualcuno se le voglia comprare. Ah no, che questo è un valore. Sì, è un'esperienza psichedelica comprare le ciabatte usate di qualcun altro. Beh, attenzione, se sono di una persona famosa vanno direttamente in asta, sì, quindi attenzione. Infatti, va bene, allora, però prima bisogna diventare famosi. Certo. Invece no, qui invece basta aver fatto qualcosa di creativo e anche magari di orrido, perché esiste il gusto dell'orrido, cioè la gente che si compra le cose oscene, e lo puoi vendere su Blish. Complimenti ai signori di Blish. Ottimo. E tu che hai trovato invece? Io ti racconto una mia esperienza pazzesca, perché la settimana scorsa ero in giro per Roma per alcuni incontri, mi è arrivato un sms per dirmi: attenzione, c'è il blocco del traffico, quindi lascia la macchina. Ma chi te l'ha mandato l'sms? No, amici. No, dammi il numero di questa persona che manda gli sms salvifici. Attenzione, potremmo fare un servizio, perché no? Facciamo l'SMS che ti aiuta, ti salva la vita. No, vabbè, comunque dai, dimmi come è andato. Allora, scherzi a parte, dovevo fare dei giri con tutti organizzati e pianificati con la macchina. Vado qui, vado lì, tutta una zona strategica. Mi avvisano che gli SMS, cioè con un SMS che c'è blocco del traffico, quindi ho dovuto lasciare la macchina. E come hai fatto poi a finire i tuoi giri? Genialata, stavo da un cliente, ho detto: per favore mi presti internet, e sono trovato magicamente atac.roma.it, il famoso, quello di cui fanno le pubblicità, il portale della, guarda, mobilità. Non denigriamo questa, no, no, cosa è carità. Favolosa, ha funzionato. Ha funzionato perché in un batter bla bla bla bla. È la prima puntata. No, vabbè, mi si è annodata la lingua. In 448 sono riuscita a farmi un itinerario di tutti i punti che dovevo raggiungere con i mezzi, e ho visto alcuni percorsi li ho fatti a piedi, altri addirittura con i mezzi. Ti indica il percorso, la durata, il numero di autobus che devi prendere, quanti passi devi fare a piedi per raggiungere il... È eccezionale. Lo proverò. Però per il momento, scusami, uno deve prima collegarsi a casa e poi uscire, non è che lo puoi vedere sul telefonino. Purtroppo non è ancora attivo questo servizio. Ci penseranno, vedrai. Andrà magari ci stanno ascoltando. Andrà consigliato assolutamente, perché è veramente utilissimo. Io ho risolto il mio pomeriggio in questo modo, sono riuscita a pianificare in un attimo tutti i miei itinerari alternativi. Bene, ma direi che come prime chicche ci siamo: un'applicazione, contenuti, un negozio online. Mandiamo un altro brano musicale, poi vediamo se riusciamo ad andare avanti con le altre cose di Proxy Bar. Assolutamente. Thank you. stream. Pulsing boulevard, busy beat. Walls are telling stories, don't make me wanna weep. Mentre la redazione cerca di mettersi in contatto con i responsabili dell'Istituto Luce, con cui sì, ci piacerebbe discutere di questa bellissima cosa che hanno fatto, introduciamo un'altra rubrica di Proxy Bar, quella che... così, esatto, e cui facevi, con la tua ormai celebre ironia, riferimento poc'anzi, Guru Meditation. Esatto. Di che cosa parliamo, o meglio, con chi parliamo in Guru Meditation? Quest'oggi sono preparata, lo so. Perché è un tuo amico. Tommaso Tessarolo, sì. Vabbè, Tommaso Tessarolo, per chi non lo conoscesse, è praticamente una sorta di Bibbia vivente. È un guru. Sul futuro della televisione. È buffissimo perché lui è continuamente a riunioni con pezzi grossissimi della televisione, esce dalla riunione e scrive subito un post, no? Ha un blog spettacolare. Ha un blog, sì, com'è l'indirizzo? Tommaso.tessarolo.it. Tommaso.tessarolo.it. Poi vabbè, metteremo il link sul blog in modo che non vi sbagliate. Però io ogni tanto, anzi molto spesso, vado su questo sito e scopro delle cose. Sul momento mi sembrano fantascienza, dopo un anno si verificano. E quindi, come dire, la mia stima verso questo personaggio è leggermente aumentata, tant'è che l'ho bloccato al Barcamp, all'ultimo Barcamp di Roma, che è un po' un ricettacolo di questi personaggi geniali, e gli ho fatto qualche domanda proprio sul futuro della TV, della radio, del podcast, tutte queste cosucce che piacciono ai nostri ascoltatori. Sentiamoli. Guru Meditation. Allora, Barcamp di Roma, sono in compagnia di Tommaso Tessarolo, che viene da una sfiancante ma interessantissima presentazione sulla Net TV, su tutte le prospettive dei nuovi media. Tra l'altro Tommaso è una delle persone che sono fino al collo in questo mondo da parecchio tempo, che segue il fenomeno che chiamiamo nuovo ormai da, da molto tempo, tant'è che sorge il sospetto, come dice giustamente il professore Epifani, che non sia più il caso di chiamarli nuovi media, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, e fortunatamente devo dire, anche perché ormai quello che si sta vedendo sempre di più in paesi come gli Stati Uniti, in Giappone, eccetera, è ormai l'ingresso a tutti gli effetti di quelli che chiamavamo nuovi media all'interno del mainstream, per cui anche discorsi fatti sulla Net Television stanno a significare proprio questo, di quanto poi i nuovi media stanno progressivamente, adesso abbiamo solo i primi accenni, diventando la televisione vera, quindi sono i media di fatto. Questo fenomeno dello user generated content, vale a dire dei contenuti creati dagli stessi utenti, è al centro anche di altri, diciamo, sottodibattiti, a partire dal dibattito sul rapporto tra questi contenuti e la pubblicità. Tra l'altro poco fa c'è stata una interessante presentazione che ha anche sfiorato questo tema. La prima cosa che ti vorrei chiedere è: ma se veramente dovesse cominciare a generarsi una raccolta pubblicitaria, tra virgolette, interessante, chiuse virgolette, da questi contenuti, che cosa succederà a soggetti come Sipra, Publitalia, Manzoni? Se dovesse, diciamo, descritta così, se queste entità dovessero rimanere ferme, passive e subire il fenomeno, diciamo che la loro prospettiva è una prospettiva abbastanza preoccupante, pessima, diciamo. Quello che credo è in realtà che piano piano il fenomeno della pubblicità sugli user generated content, che poi è da ricollegarsi al fenomeno della lunga coda, se vuoi, no? C'è la possibilità per un broadcaster di avere di fatto un palinsesto infinito, in parte generato dalle produzioni interne, in parte generato dagli utenti, su cui mandare pubblicità. Nel momento in cui loro faranno proprio questo modello, arrivando a come dire, a sfruttarlo, quindi a capirne tutte le potenzialità e inglobarle all'interno di meccanismi che evidentemente devono rinnovare, ma che comunque sono importanti, a quel punto invece io vedo per loro delle grandi opportunità, addirittura, cioè nel momento in cui riescono a capire qual è il fenomeno e a cavalcarlo, loro, i broadcaster che ci sono intorno, eccetera, è un fenomeno che può aumentare la loro potenza. Sì, ma non c'è il rischio che, almeno questa è la sensazione che ho io, che non si sta cercando di adattare i modelli di business esistenti a qualcosa di nuovo, piuttosto che costruire modelli di business interamente nuovi? Cioè, questo è un segnale, secondo me, preoccupante della scarsa capacità di adattamento di soggetti, appunto, come chi cura la raccolta pubblicitaria, ma non solo, perché ci sono altri soggetti importanti in questo gioco. Cioè, non c'è la capacità di aprire la mente nel nuovo mondo. No, non c'è, ma questo è abbastanza tipico, eh? Cioè, è corretto quello che dici, ma è un qualcosa che abbiamo, diciamo, sperimentato ad ogni grande cambiamento di questo tipo. Di base, se vuoi, è un problema generazionale, cioè io non credo che ci potrà essere un vero e proprio cambiamento all'interno di certe strutture, di certe aziende importanti, soprattutto in Italia, dove poi questa mentalità è particolarmente radicata, fin tanto che non avremo un ricambio generazionale. È triste dirlo, perché significa che avremo dei tempi molto più lunghi di quelli che dovremmo avere, ma purtroppo credo che sarà così. Ok, non voglio lanciarmi nel discorso generazionale, perché ci porterebbe troppo lontano. Passiamo a parlare di podcast, che è la parte di un tutto più ampio, che è, appunto, come l'hai chiamata tu, la fruizione non lineare. Io la chiamavo la fruizione asincrona, ma parliamo bene o male della stessa cosa, e di un fenomeno più ampio, che sono i contenuti che viaggiano su IP. Allora, da podcaster della prima ora, qualche tempo fa, nel corso della rassegna Più Blog, io lanciai una specie di allarme. L'allarme era: sì, va bene, noi qui ce la stiamo, siamo molto entusiasti, molto contenti, però ce la stiamo un po' cantando tra di noi, perché il grosso del pubblico, per tutta una serie di circostanze, non accederà nel breve termine a questi contenuti, continuerà a cibarsi di contenuti, diciamo così, che non aggiungono molto alle loro vite, fino a quando non sarà facile accedere a questi contenuti. Cioè la chiave è l'accesso, cioè finché per esempio scaricare un podcast bisognerà avere una connessione DSL che magari c'è, non c'è, capire come funziona il router wifi che magari non funziona, chiamare l'assistenza tecnica, il computer, poi l'iPod, eccetera, cioè tutta una serie di elementi che secondo me complicano molto le cose. Secondo te che cosa deve succedere perché veramente la gente consideri un podcast audio, video o anche un contenuto in streaming come YouTube, eccetera? Quando è che queste cose diventeranno la regola e non l'eccezione? Beh, innanzitutto un grande passo avanti l'abbiamo fatto quando invece di chiamarli feed RSS abbiamo cominciato a chiamarli podcast. Questo sembra stupido, ma già questo è stato un'enorme semplificazione ed è stato un abbassare, no, la soglia d'ingresso per un determinato pubblico. Per rispondere nello specifico alla tua domanda, io credo che anche in questo caso la soluzione sia una soluzione che forse piace poco a chi è, diciamo, amante della totale libertà che la rete offre, che è quello di fornire agli utenti delle soluzioni già pronte. Poi si sa, l'appetito viene mangiando, e probabilmente un utente che a quel punto, accendendo il proprio set-top box collegato alla televisione, avrà già una programmazione, sono dei podcast video, ma lui non se ne rende conto perché c'ha semplicemente dei contenuti. Nel momento in cui lui prenderà abitudine poi a usare queste cose, probabilmente potrà più agevolmente estendere la sua esperienza. Ma se vogliamo catturare una fascia di pubblico che non è avvezza all'utilizzo delle nuove tecnologie, purtroppo secondo me l'unica strada che possiamo percorrere è quella della semplificazione, intesa come purtroppo preparazione preliminare di un set, diciamo, di contenuti da dare loro in maniera praticamente trasparente. A questo punto la domanda quasi ossessiva la devo fare anche a te, sei l'ennesima vittima di questa, di questa serie di efferatezze che quasi tutti i miei interlocutori devono subire. La domanda è: ma come mai Sky ha speso un sacco di soldi per un progetto molto ambizioso che si chiama My Sky, che va un po' in questa direzione, cioè di dare maggiore controllo naturalmente a chi fruisce i contenuti, cioè sceglie l'inizio, la fine di una trasmissione, eccetera, piuttosto che fare una cosa molto più semplice, vale a dire dare al proprio decoder funzionalità di podcasting audio e video, perché basterebbe mettere a bordo del decoder Sky le funzionalità hardware, cioè l'attacco a internet per intenderci, e software, cioè mettere nella guida di Sky, che è scritta in Access Media se non sbaglio, metterci dentro anche un aggregatore, ed ecco che tutte queste cose improvvisamente vanno, entrano nella vita dell'abbonato di Sky. Perché invece è stata percorsa un'altra strada che comporta per esempio l'hard disk da 120 giga, cioè tutta una serie di cose che sembrano abbastanza pesanti, no, rispetto alla leggerezza della tecnologia del podcast. Guarda, senza dirti cose che non posso dire, però diciamo che stiamo vivendo un caso simile anche altrove, diciamo, all'interno di altri broadcaster. Anche qui credo che sia un problema fondamentalmente di cultura, cioè la tecnologia purtroppo in questi ambienti è un qualcosa che da sempre concepito è un qualcosa di molto lento. Cioè i broadcaster sono abituati da sempre ad avere più o meno le tecnologie televisive ferme. Sì, ci sono state evoluzioni, qualche TV che vediamo adesso è la stessa che si vede negli anni 50. Assolutamente, sono state, diciamo così, automatizzate le produzioni, certi meccanismi di gestione delle scalette, il palinsesto sono migliorati con la digitalizzazione, eccetera. Tutto quello che non è visibile all'utente è cambiato, è migliorato, eccetera. La televisione è la stessa cosa, e questa è la mentalità che c'è in queste persone, per cui proporre un qualcosa che vada al di fuori di quelle che sono le loro logiche è un vero problema. Per questo ti parlavo prima, no, di cambio generazionale, perché servono persone che non sono abituate da sempre a ragionare in quel modo. È una candidatura? No, non credo di tenerci più di tanto, però sicuramente quello che sto cercando di fare è far capire quanto questi fenomeni siano già oggi accessibili, quello che dicevi tu, cioè effettivamente un set-top box dotato di un certo tipo di prese, di connettività e un minimo di software già potrebbe essere inserito tranquillamente in un'offerta. Tommaso è veramente eccezionale, adesso capisco il motivo per il quale tu l'abbia messo in Guru Meditation. È un guru, non ha proprio l'aspetto di un guru. No, però ci sta tutto, via. Va bene, allora dalla redazione mi dicono che non riusciamo a parlare con i responsabili dell'Istituto Luce. Non è un problema, perché vabbè, tu lo sai, io passo le notti a guardare, esatto, questi documenti. Sicuramente adesso tu ci racconti, dopo tutte le tue nottate, qualcosa su Istituto Luce. Vabbè, intanto lo sapete benissimo che l'Istituto Luce è praticamente depositario della gran parte della memoria storica proprio dell'audiovisivo nazionale, almeno fino al sorgere della televisione. Poi sì, al cinema hanno continuato a mandare cinegiornali. Ti ricordi quei cinegiornali? Sì, mi ricordo soprattutto che quando negli anni 70, quando io ero piccolo, andavo al cinema, in questi cinema fumosi, perché si poteva ancora fumare, c'erano prima dei terribili cinegiornali, perché a quei tempi era tutto lottizzato, c'erano i congressi repartiti uno dietro l'altro, no? C'erano queste grisaglie, però era uno specchio dei tempi. Nel frattempo la televisione aveva ampiamente sopperito, no, all'esigenza di informazione audiovisiva, però invece negli anni 20, 30, 40 e primi anni 50 il cinegiornale era il telegiornale, e quindi quelle che poi anche in Francia, no, hanno fatto le cosiddette actualité, no, della Pathé, eccetera, in Germania anche la stessa discorso. Invece adesso ci becchiamo la pubblicità. Adesso c'è la pubblicità, lasciamo perdere i telegiornali di oggi, sennò veramente poi mi tocca essere un po' troppo cattivo. Invece, ecco, guardando questi documentari e mettendo un po' da parte anche l'elemento propagandistico, perché è ovvio che negli anni 30, cioè, la propaganda passava attraverso questi canali, però erano fatti con una qualità cinematografica impressionante, perché poi non lesinavano mezzi. Il cinema per esempio il regime fascista era un'arma fondamentale, quindi avevano delle apparecchiature assolutamente d'avanguardia, e molti personaggi del cinema hanno fatto scuola lì. Faccio una domanda un po' polemica, ma secondo te il fatto di averli messi online, quindi disponibili a tutti, non può essere un voler mostrare anche le brutture di quel periodo? Beh, assolutamente sì, cioè oggi la missione dell'Istituto Luce è soprattutto ricordare agli italiani, insomma, gli anni che abbiamo vissuto. Poi gli italiani sono adesso vaccinati rispetto a quella propaganda, quindi vedono, sentono questo linguaggio che ricorda un po' i fascisti su Marte di Guzzanti, no? I gerarchi che fanno i salti sulla cavallina, eccetera, sono pronti, no, all'idea di che cosa poteva essere un cinegiornale a quei tempi, e a quella propaganda che oggi magari sembra ingenua, ma a quei tempi assolutamente non lo era. E in realtà ti calano nell'epoca molto più di quello che potrebbe fare un documentario, tra virgolette, onesto e trasparente al 100%. Io passo veramente le serate a guardarli, perché molte delle cose, molta della propaganda anche un po' sfacciata di quei tempi, oggi in modo più sottile e per certi versi anche più pericoloso, passa attraverso i canali insospettabili dell'informazione. E lo trovo abbastanza interessante sotto questo aspetto. Comunque adesso parliamo un attimo della loro titanica impresa. Questi signori cosa hanno fatto? Io credo che abbiano usato un sistema di automazione e di storage, come si dice in linguaggio tecnologico. Hanno trasformato in file digitali, quindi non destinati a decadimento, una quantità impressionante di materiale, non solo cinegiornali ma anche documentari. Sono documentari fantastici anche sull'Eur, sui cantieri dell'Eur negli anni 40, questi te li consiglio a te che piacciono queste cose. Ci hanno messo un bel po' di tempo, però intanto adesso è tutto lì, si può scaricare con diverse qualità, c'è la qualità broadband, la qualità DSL, quindi non ci sono problemi. Cioè, tu vuoi dirmi che l'hanno non solo digitalizzato ma anche messo a disposizione di tutti, anche a qualità elevata, cioè qualità digitale altissima, o solo diciamo che quella parte l'hanno tenuta in un loro archivio? No, la qualità più alta è comunque una qualità sufficiente per fini di ricerca. Non hanno messo a disposizione questi file in download, a differenza di quello che ha fatto per esempio l'INA in Francia, dove con un costo irrisorio è possibile scaricare veramente questi file e utilizzarli, cioè si pagano tipo un euro per ogni filmato. Ma comunque, ripeto, per esigenze di ricerca non c'è bisogno di una qualità superiore, non è una qualità broadcast. Però comunque anche nel mondo broadcast, guarda che l'Istituto Luce sta vivendo una seconda giovinezza, perché loro adesso hanno stretto delle alleanze con la Rai, con History Channel, e molti dei documentari che vanno in onda adesso su History Channel sono in realtà prodotti dall'Istituto Luce, mi sembra con profitto. Senti, io non ho studiato e quindi sono impreparata, provo a farti questa domanda e se non sei in grado di rispondermi andrò a consultarla subito. Secondo te questi contenuti sono accessibili? Ah, ho capito cosa intendi. Tu sei fanatica dell'accessibilità. Non sono fanatica dell'accessibilità, è un punto che Guarda, il portale, le logiche di navigazione del portale dell'archivio storico dell'Istituto Luce sono avanzate, cioè si vede proprio ad occhio che è un portale fatto da gente che se ne intende. Quanto siano stati attenti al concetto assoluto e immacolato di accessibilità a cui tieni tu, questo francamente io non lo so. No, ma pensa a una persona normovidente, un contributo video di cui ha comunque un contributo audio, sì, anche, quindi sì. L'utente può comunque ascoltarlo. Certo. Perfetto, quindi è possibile fare una ricerca per argomenti? Sì, sì, ci sono tutte le categorie, c'è una ricerca per parola chiave, ci sono le tag. No, sotto questo aspetto devo dire hanno fatto veramente un gran bel lavoro. Pensa, ci sono persino i tagli, cioè le cose che non sono state pubblicate. Addirittura. Guarda, non voglio dilungarmi troppo, però per dire, al di là della censura che possiamo immaginare di matrice politica, c'è anche una censura di costume. Negli anni 30 il famoso Ministero della Cultura Popolare, che per un certo periodo è stato diretto da un mio omonimo, diciamo che si prodigava in tagli che erano legati proprio alla cultura del tempo. A un certo punto Jane Mansfield, la grande sexy bomba del cinema americano degli anni 30, arrivò in Italia, arrivò all'aeroporto dell'Urbe e fu ripresa per i cinegiornali. Aveva una grandissima scollatura. Nei tagli si vede la scollatura di Jane Mansfield. Se tu guardi invece il cinegiornale che poi è andato in distribuzione nelle sale, si vede una bella donna abbastanza casta. E questo perché alla fine la cultura del tempo era una censura pazzesca. Sì, sì, cioè interveniva anche su, ti ricordi le famose foglie di fico sulle statue, no? Eccetera. Quella era la cultura del tempo e ci deve ricordare veramente da che tipo di cultura proveniamo noi italiani, perché oggi abbiamo ancora parecchi ostacoli. Va bene, questo è un argomento di libera discussione, però quelle sono le nostre radici mediatiche. Non dobbiamo stupirci più di tanto se poi c'è stata per esempio una reazione forse spropositata nell'altro senso, certo, no? Uh-huh. Un po' come hanno fatto gli spagnoli dopo Franco con il Desarrollo, con i film di Almodóvar, di Biggest Luna, eccetera. Ma adesso non voglio dilungarmi su questo. L'Istituto Luce ci insegna veramente tante cose sulle nostre radici, sul nostro passato. Che dire, ci sarebbe piaciuto parlarne anche con gli autori, esatto, di questo, esatto, coloro che hanno fatto, realizzato questo, di questo miracolo. Lo faremo magari un'altra volta. Per oggi, beh, siamo arrivati quasi alle 19:44 minuti. Io direi che incredibile, sì, è veramente volata. Sì, io manderei un brano musicale, saluti, poi, sì. Sì. Poi salutiamo e facciamo un piccolo preview sulla prossima settimana. A tutti nostri ascoltatori di fare una visita al sito dell'Istituto Luce, che è a www.istitutoluce.it. No, no, guarda, è www.luce.it. Luce, ma secondo me si raggiunge anche con Istituto Luce. Sì, probabilmente c'è un redirect. www.luce.it. D'accordo. Troverete tutti i link comunque sul nostro blog, sì, raggiungibile dal nostro sito www.radioemago.net. E sul sito dell'Istituto Luce non vi dovrete spaventare se vi chiederanno una registrazione per visualizzare poi effettivamente i video. Oltre al catalogo è del tutto gratuito, non vi tempestano di newsletter, di email non desiderate. Ritengo sia anche giusto monitorare quante persone e chi scarica cosa, secondo me è giusto. Naturalmente, perché poi vabbè, bisogna anche vedere le applicazioni. Allora, dalla redazione mi avvisano che abbiamo il dottor Cecuti, direttore dell'archivio storico dell'Istituto Luce, uno degli autori di questa impresa titanica di digitalizzazione e distribuzione su internet, quindi noi siamo molto felici di averlo, lo salutiamo e lo ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera. Buonasera a voi, chiedo scusa per il ritardo di collegamento, è tutta colpa mia, chiedo scusa a voi e agli ascoltatori ovviamente. Non c'è assolutamente nessun problema, siamo felicissimi di poter integrare quelle informazioni che abbiamo già dovuto in qualche misura dare su questo progetto. Non voglio immaginare cosa avete detto in mia assenza. Vabbè, io sono un tale fanatico di questo sito, ci passo le serate, che non potevo veramente comunque che parlarne in termini molto lusinghieri ed entusiasti. La prima cosa che mi viene da chiedere, dopo aver già in realtà parlato un po' di come funziona l'archivio, di come si naviga, è cercare di capire da voi qual è attualmente la missione dell'Istituto Luce, perché quello che manca negli italiani è proprio la consapevolezza piena del ruolo di un'istituzione come la vostra. Guardi, noi sentiamo il peso e la responsabilità della nostra missione, cioè il nostro archivio è unico nel suo genere, ma questo ci differenzia anche dagli altri archivi degli altri paesi, cioè è raro il caso in cui tutta la memoria storica audiovisiva di una buona parte del Novecento, cioè fino al momento in cui la RAI sostituisce giustamente Luce, insomma la televisione che diventa un mezzo molto più accessibile che non il cinematografo, prenda piede, quindi fino a quando noi abbiamo quasi in esclusiva tutta una vastissima produzione di quella che i francesi in maniera molto più elegante, noi li chiamiamo cinegiornali, loro la chiamano la presse filmée, cioè la stampa filmata. Sì. Adesso io non so qual è il target della vostra audience, però insomma chi come me ha un po' di capelli bianchi ricorda che noi vedevamo le notizie, insomma ecco, il Sanremo che tutti hanno visto, noi lo vedevamo andando al cinema, in quel cinegiornale che veniva proiettato uno spettacolo e l'altro. Guarda, io non so il pubblico che ascolta la trasmissione, ma io e Daniela ci ricordiamo dei cinegiornali, l'abbiamo detto prima, quindi... Il Luce ha avuto un periodo, voglio dire, per carità, sfortunato, parliamo di un periodo di dittatura, insomma, ma era il braccio di propaganda del regime e quindi aveva quasi in esclusiva la comunicazione attraverso questo strumento straordinario. Quindi noi abbiamo i cinegiornali Luce, i documentari Luce che partono dagli anni dal 25 per arrivare fino alla fine della guerra ovviamente, e poi per un'operazione di recupero quasi tutte le testate giornalistiche appunto filmate che dal dopoguerra in poi hanno documentato giorno dopo giorno insomma la storia del paese. Ecco, ma quando sono andati in onda gli ultimissimi cinegiornali? Ma guardi, andavano in onda anche negli anni 80 e 90, però insomma lì quando venivano proiettati venivano staccate anche le poltrone insomma da parte del pubblico, quindi era una cosa... No, ma sinceramente cioè, il valore del cinegiornale come valore giornalistico vero e proprio, che non sia quello della continua inaugurazione di una fiera o di una cosa banalissima dove il primo piano con una macchina sola di ripresa era sul sottosegretario, sul ministro di turno, si fermano agli anni 60-65 insomma, ecco, ma materiale valido anche fino agli anni 70-75 per carità, però voglio dire, se lei mi telefonasse e mi dicesse voglio fare una ricerca, io le direi dal 65 in poi vada in Rai, trova altro materiale che comincia a essere più serio. Certo. Infatti la Incom, che è dunque l'acronimo è di Industria Cortometraggi, e chiude nel 64. Ecco. Quindi possiamo dire che la data un po' limite per una rilevanza reale archivistica, storica, insomma, è questa. E io questo che lo dico sempre a chiunque si rivolga a noi, sia per fare una ricerca semplice, ma anche chi vuole acquistare, quindi contro i miei interessi, dico, insomma, per avere una cosa seria, da un certo punto in poi siamo complementari, insomma, la RAI, o ecco, la RAI è complementare a noi. Un numero che noi non abbiamo dato è esattamente di quanti, diciamo, cinegiornali, materiali si compone, per dare un'idea della dimensione di questa impresa. Guardi, noi oggi, poi il fatto che noi da archivio storico stiamo diventando anche un archivio corrente, cioè una volta eravamo solo il materiale acquisito fino appunto agli anni 70-80, invece in questo momento ci stiamo allargando anche all'audiovisivo, quindi non siamo più soltanto un archivio di pellicole, ma anche di materiale girato su altri supporti, ovviamente video o digitali, quindi... con recente acquisizione abbiamo acquisito anche tutto il materiale girato e non montato di Folco Quilici, che è il più grande documentarista, però... oppure il fondo canale di Mario Canale, che è un reporter, diciamo, usando una parola non italiana, di tutto quello che è riguardato il cinema in Italia dagli anni 80 in poi. Però come vogliamo dire, insomma, di cinegiornali e documentari, per dire, insomma, in luce di qualche anno fa noi avevamo 20.000 titoli, 22.000 titoli che possono corrispondere a 3.000 ore di filmati. Impressionante. E quanto tempo è stato necessario per digitalizzare tutto quanto? Allora, lì qui va fatta una distinzione tecnica, non vorrei annoiarvi con questo. No, assolutamente. Quando noi parliamo di digitalizzazione di un film, normalmente si intende digitalizzare, quindi trasformare l'analogico al digitale ai fini conservativi, cioè acquisire da ogni singolo fotogramma tutte le informazioni con la stessa qualità, ritrovarle poi nel file con la stessa qualità dell'originale. Invece per andare su internet non abbiamo fatto questo lavoro, ovviamente, quindi abbiamo acquisito da una qualità più bassa. Il processo invece di digitalizzazione a fini conservativi è una cosa molto più complessa, che parte a luce da quest'anno, quindi avremo un laboratorio che stiamo inaugurando in questi giorni che racchiude tutta la filiera, diciamo, di questi passaggi dall'analogico, quindi dall'analogico, il restauro filologico, il trasferimento poi su file digitali per la lunga conservazione. Ho capito, interessante. Lei parlava del sito, le do un'anteprima. Noi adesso abbiamo inserito sul sito, non su quello che lei vede attualmente andando su www.archivioluce.com, mi faccio pubblicità ovviamente, ma un nuovo sito che sarà pronto fra un mese, nel quale usciamo, mettiamo in rete, sempre accesso libero e gratuito, a 350.000 fotografie. Wow! Sì, questo ne siamo orgogliosissimi, perché... Sì, perché le fotografie sono altrettanto importanti nell'archivio, ci sono anche dei libri sulla storia di Roma nelle foto del Luce, se non sbaglio. Sì. E sono le prime 350.000. Ecco, queste qui sono state digitalizzate non per internet, ma a fini conservativi, cioè altissima risoluzione, credo che sia, se non vorrei sbagliare, io sui dati tecnici mi sbaglio spessissimo, e che dovrebbero essere 6.000 punti di base, quindi sarà una risoluzione altissima, se posso riprodurre anche un'immagine di 3 metri per 2. Ma insomma, saranno common free, ossia potranno essere utilizzate? Caricate o... no, potrà vederle, consultarle, insomma, poi se trova la maniera, insomma, piratando, che è una cosa abbastanza comune, di scaricarsele, però c'è l'acqua al watermark, che è difficilmente ristampabile, certo, riproducibile, insomma. Certo. E lo può inserire nel proprio album, così, ma non... Saranno comunque acquistabili? Certamente, okay. Ci sarà il carrello. Perfetto. E quindi potranno essere acquistati direttamente in rete. Ecco, quando avete deciso di mettere in rete per la libera consultazione, in streaming, tutto il materiale audiovisivo di cui abbiamo parlato poco fa, avete incontrato delle resistenze, dei problemi magari legati proprio al tema del diritto d'autore, oppure no? Per nostra fortuna, e questo si distingue, voglio dire, questa è una vera fortuna però, è che noi, il nostro archivio è proprietario, cioè noi i materiali conservati sono dell'Istituto Luce, cioè noi abbiamo i diritti al 100%, eccetto queste ultime acquisizioni in cui, diciamo, siamo partner dell'avente diritto. Però su questi 22.000 titoli o sul 3 milioni di fotografie, tutti i diritti sono nostri. Quindi è raro un archivio proprietario, come lo definiamo noi, non sono pochi. Ecco. Parlavo poco fa di quello che stanno facendo i francesi in questo momento. C'è un progetto analogo che è quello dell'INA, cioè dell'Istituto Nazionale per l'Audiovisivo in Francia, che però prevede, oltre allo streaming gratuito, anche la possibilità di scaricare i file a costi irrisori, di solito a pochi euro a contributo. Sì. Perché il Luce ha scelto invece solo lo streaming come modalità di fruizione? No, non è una scelta forzata, voglio dire, rispetto al downloading, che per una questione di banda, insomma, ma è chiaro che noi siamo interessati a dare i nostri file, però dipende anche dalla qualità. Certo. Cioè, voglio dire, se lei mi chiedesse di darle il formato che c'è oggi in internet, insomma, che è di bassissima risoluzione, io non avrei difficoltà a farglielo scaricare, ma noi stiamo appunto col nuovo laboratorio dove andremo a qualità, avere il digitale a qualità alta e quindi poi in downscaling averlo in qualsiasi formato, stiamo ovviamente pensando anche al downloading, sarà possibile acquistare direttamente il filmato. No, è un'altra anteprima. Questo ormai sarebbe follia non farlo, insomma. Le difficoltà che abbiamo avuto sono state quelle, diciamo, politico-strategiche, perché c'è chi diceva che internet doveva essere a pagamento, insomma, anni fa internet sembrava che lì dovessimo tutti quanti arricchirci. Invece devo dire, alla fine, se uno cominciava a dire, vabbè, allora tu per accedere ai filmati devi pagare, vabbè, poi dice, ma al cliente, no? Lo fai pagare, no, anzi dai l'accesso gratuito, all'ente locale, no, anzi perché favorisci, no, l'acquisto, certo. Cioè alla fine chi avrebbe pagato, insomma, sarebbe stato lo studente, il ricercatore, no, o il curioso, cioè alla fine sarebbe stata la parte più debole, diciamo, della fascia del nostro utente a pagare, quindi per fortuna poi, voglio dire, anche politicamente, anche col ministero, insomma, che poi decise, no, che era giusto come servizio pubblico, di un ente pubblico come lo è Luce, insomma, renderlo pubblico il servizio. Allora, per chiudere, io vorrei fare una domanda che, vabbè, risponde in realtà più a una mia esigenza e curiosità privata che altro. Io immagino che tornando a rivisitare questo sterminato materiale siano tornati alla luce documenti magari dimenticati, no? Volevo sapere se per caso ha qualche episodio in particolare da raccontare o qualche contenuto particolarmente significativo che vuole invitarci a visionare. Sì, io vi invito a fare una cosa che mi diverte moltissimo, rivedere le immagini senza il suono. Allora lei vede una cosa completamente diversa, certo. Cioè perché soprattutto un cinegiornale, un documentario di propaganda, no? Dove il sonoro diventa molto più importante dell'immagine, quindi lei alla fine rimane più impressionata da quello che ha detto lo speaker che dall'immagine, lei toglie e lei vede un'Italia completamente diversa, cioè io la sfido ad andarsi a cercare la dichiarazione di guerra, no? Dove c'è una folla, un tripudio a Roma, ma dove poi se lei va nelle altre piazze dove non c'è la presenza carismatica, voglio dire, di Mussolini in quel caso, e dove arriva con altoparlante il messaggio di Mussolini da Piazza Venezia, se toglie l'audio lei vede invece la disperazione sul volto degli italiani, quindi c'è una seconda lettura senza audio, questa è la cosa più divertente che si possa fare. E questo è un esercizio, guarda, invito anche te, fate, Daniela. Vado a cercare la dichiarazione di guerra del 10 giugno e lei, superata Roma, insomma, dove poi la capacità comunicativa di Mussolini, insomma, ha una rilevanza non indifferente sulla reazione del pubblico, vede le altre piazze, lei si accorge che non c'erano gli inquadratori dell'ombra. Ferma e disperata. Però se, come che accende l'audio, insomma, sente applausi, insomma, come oggi le risate in studio, insomma, per carità. Va bene. Niente di nuovo, quindi. Allora, io la ringrazio per questo contributo preziosissimo, perché sì, noi potevamo parlarne un po', ma saremmo stati solo lato utente, invece abbiamo capito anche un po' dello sforzo. E abbiamo avuto anche delle anticipazioni. Sì, tra poco, sarà un sito completamente diverso. Benissimo, lo vediamo allora. Allora, grazie infinite, abbiamo allungato un po' i tempi della trasmissione, però grazie a voi. Ne è valsa la pena. Grazie. Buonasera. A voi, scusatemi di nuovo. Buonasera a tutti. Bene, allora a questo punto non ci resta che fare i saluti. Siamo soddisfatti? Sì, alla fine tutti i pezzi, anche se in ordine sparso, sono andati al loro posto, come nel gioco del 15. E possiamo dare, magari, prima di salutare, qualche anteprima su cosa faremo la prossima settimana? Sì, questa è un po' una cosa viscerale che bolle dentro di me da un po'. Cercare di capire dove va la stampa tradizionale e dove va internet, se si incroceranno, se si annulleranno a vicenda, se ci saranno sinergie. Tu vuoi sapere quanta paura hanno i giornali di internet? Ecco, tu non devi, adesso tu guardi la mia faccia sadica e pensi che io abbia questo approccio alla realtà. No, io ti chiedo, secondo te i giornali hanno paura di internet? Ma io penso che in una certa misura sì, ma tutte le grandi trasformazioni hanno al loro interno un fenomeno di resistenza al cambiamento che porta però poi a delle evoluzioni virtuose, speriamo che sia così, ne parleremo, penso, con degli esperti la prossima settimana. Io sono molto curioso e direi che come prima puntata possiamo anche salutare. Assolutamente. È stato un piacere stare con voi, con Antonio è veramente divertente lavorare. Beh, con Daniela, al di là della trasmissione, devo dire una cosa, lei è un'anima di questa radio, molto più di quanto non lo sia io, e se tutto questo funziona lo dobbiamo soprattutto a lei. Non esageriamo. Abbiamo scoperto che è anche una grandissima conduttrice. Troppo buono. Vediamoci giovedì prossimo. D'accordo, giovedì. A presto. Buonasera. Buonasera. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.